Il pranzo. 1. Ascolta la terza parte del dialogo. Quanto costa normalmente una batteria? Ogni batteria costa 2,75 euro. Carl, hai i panini? Sì, certo. Ho tutto. I panini, i biscotti, una bottiglia di acqua. Bene, ho proprio fame. Ma no, c'è qualcosa da mangiare in cucina. In primavera, Sonia ed io siamo spesso qui di domenica. Il frigorifero non è mai vuoto. Ho bisogno di poco tempo per preparare. E mangiamo in giardino. Va bene un po' di pasta? È una bella idea.